Non mi serve la fantasia per dire che in giro c'è la pazzia. Tutto va male, non è colpa mia. Per ogni fatto che accade c'è una regia che butta tutto in fondo ad una galleria. Ma dimmi se ti sembra normale, ogni giorno troppi morti al telegiornale. Questa è la situazione reale. C'è nessuno accanto a te, ti muovi da solo. Parti in vacanza ma hai paura del volo. Temi l'infarto ma fumi le Marlboro. Tieni un segreto, poi lo sveli in coro. Non va, qualcosa non va affatto bene. Questo è il bicchiere in cui continui a bere. Passa il tempo e non vedi sere in cui tu pensi a cose serie. È inutile anche aprire gli occhi. Guarda le opportunità che tocchi. Conta quante volte ti blocchi in un posto senza risvolti. Non è un caso rimanere sciolti. Giudichiamo osservando i volti. Lascia stare personaggi sciocchi. Tu sei uno e gli altri sono in troppi. Dovresti stare nel medioevo, col piccione viaggiatore e senza lo stereo. È l'arrivo della crisi per il troppo spreco. Io vivo su sta pattumiera ma non prego. Non bisogna dire mai me ne frego. Aspettami un attimo che te lo rispiego. Capisco solo immagini sopra un telo. E la notte temo sempre l'uomo nero. Per vedere qualcosa devo affittare un film. Niente è giusto, niente è a posto qui. Tutto è al contrario e fuori orario. Tutto cammina fuori dal binario. Ma è sempre solo il solito scenario, quello che ti fa riflettere sul divano. Le statistiche che crescono e non vanno piano ci ricordano che non andremo lontano. È inutile anche aprire gli occhi. Guarda le opportunità che tocchi. Conta quante volte ti blocchi